E quella coppa ricevuta allora dalle mani di Haile Selassie in persona? Addis Abeba, nella federazione sarà. Sarebbe bello un giorno andarla a rivedere. Eh sì, veramente. È una buona idea questa, però se io avrò la possibilità di andare, te lo dico, Appassionante, emozionante e davvero suggestiva la storia di Luciano Vassallo, il campione che ha unito tanti paesi e due continenti interi e che vi abbiamo raccontato oggi per volere degli dei di Olimpia e dello sport, perché queste divinità ancestrali riescono a unire magicamente i destini degli sportivi di tanti anni fa a quelli di noi appassionati moderni. Ebbene, per l'appuntamento odierno con Olimpia è davvero tutto. Un grazie a Roberta Frisani in cabina di regia. Vi ricordo che potete riascoltarci come d'abitudine in podcast attraverso la nostra pagina web sul sito www.radio24.it e dialogare con noi attraverso il nostro indirizzo mail olimpia@radio24.it. Ancora una buona domenica da Dario Ricci.